Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Rimini, ottobre 2007. Due figli vegliano per mesi il corpo della madre. L'importante è non fare rumore. Per questo in casa io e mio fratello giriamo scalzi. I piatti sono posati sul tavolo, separati gli uni dagli altri. Così si evita quel clangore di stoviglie che disturba. Nemmeno li laviamo i piatti. Persino lavarsi e vestirsi farebbe rumore. Viviamo come inumati. Mangiare si deve, ma il giorno in cui mamma è caduta abbiamo fatto provviste di cibo già pronto per non lasciarla più sola. Mamma dorme, per questo è importante far piano. Mamma emana un tanfo bestiale, ma mio fratello dice che è normale, io gli credo, dice che a mamma succede come a Gesù che dopo 3 giorni è resuscitato. Ecco, anche a mamma succederà così. Per quello abbiamo tirato giù le serrande, per lasciare il mondo fuori con tutti i suoi infedeli e i suoi rumori. Guasterebbero il miracolo. Ce la porterebbero via e non ci resterebbe che buttarci giù dalle scale, proprio come ha fatto mamma. È caduta mamma, è caduta male e non le usciva fiato. Guardava solo me e mio fratello con gli occhi grandi. È stato allora che mio fratello ha parlato con Dio, gli ha parlato dagli occhi di mamma. La sua stanza ora è come un santuario. Alla puzza ci si abitua, fa parte di quel mistero in cui viviamo e che io e mio fratello abbiamo imparato a chiamare vita. Mamma si scolora, si riduce, si accartoccia. Io e mio fratello pensiamo alle crisalidi e abbiamo la certezza abbagliante della fede. Mamma diverrà farfalla, resusciterà e sarà bello. Allora apriremo le finestre come il Cristo aprì il sepolcro. Usciremo e saremo creduti e mamma sfolgorerà di accecante bellezza. Ma che ne sarebbe stato del Cristo se avessero violato il silenzio e il buio del sepolcro? Ci avrebbero trovato soltanto un morto e basta. E allora tutti saremmo morti, tutti, senza redenzione. Bisogna aspettare, sono d'accordo con mio fratello. È bravo mio fratello, è buono, è paziente. Per questo sto respirando, per concentrarmi e non correre a spalancare la porta e urlare ai vicini che suonano, domandano e bussano, di sparire dalla faccia della terra. Ignoranti filistei meschini. È un mese che bussano alla porta, credono di essere discreti, invece sono parassiti. Ogni colpo è un morso nel mio cervello, qualcosa che mi fa gridare dentro e mi fa venire voglia di piangere. Come si fa a donare fede a chi non ce l'ha? È impossibile! Proprio come la storia del cammello che vorrebbe passare dalla cruna di un ago o il ricco che vorrebbe entrare nel regno di Dio. Noi non apriamo, aspettiamo. Temiamo solo che quei colpi disturbino il sonno sacro della mamma, che non la facciano risorgere. I vicini hanno detto che se non apriamo arriverà la polizia. Lo so che arriverà, lo sa pure mio fratello. Forse questo significa che l'apocalisse è vicina, che il mondo finirà, perché ha perso la fede. Io e mio fratello piangeremo abbracciati e ci diremo che abbiamo fatto bene perché abbiamo ascoltato la voce di Dio parlarci dagli occhi di mamma. Mamma tutta rotta ai piedi delle scale, mamma fratturata, che non si sarebbe ricomposta. Ma Dio ha parlato dai suoi occhi e mio fratello ha capito. Le ha preso il collo dolcemente fra le mani e ha fatto il miracolo per conto di Dio. Le ha torto il collo in un gesto risoluto e secco. Un gesto d'amore, lo giuro, un gesto d'amore, io c'ero, era un gesto d'amore. Ce l'hanno detto gli occhi di mamma, gli occhi di Dio incastonati in quelli di mamma. Ci hanno detto grazie figli miei, grazie miei diletti, miei adorati, grazie. Non sento più dolore, non sento più. Sarà un peccato quando la polizia arriverà, un peccato davvero. Ci diranno cose brutte, lo sento, perché gli uomini non credono. Sarà un peccato ancora più grande non vedere mamma riaprire i suoi occhi dolcissimi, riempire le carni secche e fiaccate. Noi le abbiamo sempre voluto bene. Lorenza Ghinelli, in libreria con Il Divoratore. Newton Compton Editore, 254 pagine, 9,90 €. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce del sabato e della domenica, www.radio24.it, alla voce podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Ciao a tutti, al prossimo weekend!